Mix 24 di Giovanni Minoli. Russia schiera le navi con la flotta francese, nuovi raid aerei, Hollande, la nostra risposta deve essere spietata, Putin, coalizione come contro Hitler. Fa scalpore l'accusa del presidente russo Putin, secondo cui 40 paesi, tra cui membri stessi del G20, aiutano economicamente l'ISIS. Tra loro ci sarebbero anche i padroni di casa del vertice. Professor Presidente Romano Prodi, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, Putin ad Antalya ha fatto un'accusa precisa alla Turchia. È fondata, secondo lei? No, Putin ad Antalya non ha fatto un'accusa alla Turchia, ha fatto l'accusa a tanti paesi, tra cui la Turchia. Sì, naturalmente. Questa sì. È la cosa molto più interessante. Interessante perché questi 40 paesi sono tanti. Diciamo la verità, adesso che siano 40, che siano 10. Sì, non cambia niente. Non cambia niente, diciamo la verità. Sul terrorismo c'è stato in questi anni una ambiguità terribile. Di tutti. Io, della mia esperienza nel Sahel, nell'Africa, tutti dicevano che arrivavano aiuti dai paesi del Golfo, indicavano come, quando, perché. Naturalmente non è che io sia andato a visitare se arrivavano i Tupolev nella sabbia o meno, ma era, diciamo così, conoscenza comune che ci fossero parecchi paesi in cui il governo si schierava apertamente contro il terrorismo. Sì. E poi fondazioni, associazioni, gruppi di interesse. Invece li fornivano armi e soldi. Armi o non, più spesso denaro. Denaro proprio. Ecco. Adesso, Presidente Prodi, Putin oggi è l'aggregatore, in qualche modo insieme a Hollande, della coalizione anti-ISIS e dice che bisogna unirsi come contro Hitler. È uno scenario simile? Ma lasciamo stare, perché quella di Hitler era la grande forza militare, questa è la terribile forza di provocare tragedie ovunque. Siamo in uno scenario completamente diverso, in cui lei non può avere un fronte con i carri armati, queste cose, ma deve avere un coordinamento nella lotta. E quindi. Ecco, ma per coordinare l'Europa può continuare a fare da una parte la guerra fredda a Putin con le sanzioni e poi sperare in lui contro l'ISIS? Vabbè, certo no. Il problema è che noi dobbiamo essere, e lo siamo, fedeli alla NATO, perché siamo membri di una coalizione che si chiama NATO. Ma la politica della NATO che noi dobbiamo spingere è quella di non provocare ulteriori tensioni con Mosca, perché non è nostro interesse e perché nel lungo periodo ci sono delle possibilità di integrazioni, anzi delle necessità di integrazione con la Russia. Non è un problema di Putin. Certo. È un problema di... Cioè, insomma, l'Europa dall'Atlantico agli orali di De Gaulle comprende la Russia. Ma è evidente, nei rapporti economici e certo. Politici, mica può essere parte dell'Unione Europea la Russia. Naturalmente. Però, vede, l'idea di portare la NATO ai confini della Russia non è mica un'idea politicamente raffinata e intelligente. Voglio dire, l'ultimo atto del mio governo, che ero già sostanzialmente in crisi, è stato, insieme a Francia e Germania, di mettere il veto dell'entrata dell'Ucraina e della Georgia nella Russia, certo. nella NATO, certo. Perché era un inutile provocazione. Era una provocazione, esatto. Che Bush voleva, ma che non aveva senso. Sì. Perché poi, diciamo anche la verità. Si sono visti i danni. Si sono visti i danni, ma anche gli interessi economici. Certo. Noi abbiamo America. Delle integrazioni forti con la Russia, l'America non le ha. Esatto, questo è un punto centrale. Ecco, tornando alla guerra, però, a quello che sarà, giovedì Hollande e Putin si incontrano. È un incontro chiave, secondo lei, per dare un indirizzo alle cose da fare o no? La Francia ritiene che non si può mettere pace al Medio Oriente senza un accordo o quantomeno una tregua col regime di Bashar, con la Russia e con gli iraniani. La situazione di oggi sembrerebbe, anzi, la situazione di oggi dà ragione a questa, a questa. Anche, la, anche gli Stati Uniti qualche passo avanti sembrano farlo, no? Ah, ma era ora, È un anno e mezzo che la meno con questo. Cosa vuole? O ci si mette tutti assieme contro il terrorismo o si perde. E tutti assieme vuol dire che ci, c'è bisogno anche di truppe di terra, e le truppe di terra purtroppo le può fornire solo lo scassato esercito di Bashar Assad. Certo. Lei infatti ha detto le guerre si vincono non con i droni ma con gli scarponi, e quindi è questa insomma la conferma di quello che sta dicendo. Beh, per forza, dico, sì, non è che ci voglia la grande intelligenza strategica per dire questo. Senta, ma perché Obama è così indeciso a tutto in politica estera? Perché ha dei problemi di politica interna. Ah, guardi, nella mia esperienza, la grande asimmetria nella politica estera di chi dispone del proprio paese e di chi non ci dispone è enorme. Io ho un ricordo personale che riguarda anche Putin. Quando noi alla Commissione europea portavamo avanti il protocollo di Kyoto come, finalmente come inizio di una politica comune per la salvaguardia del pianeta, per arrivare al numero di paesi necessari mi occorreva la Russia, no? Certo. Allora andai da Putin e ho detto, ma la Russia nel lungo periodo, eccetera, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto, ma io ho di fronte la Duma, il mio Parlamento, al che mi sono proprio messo a ridere. Lui ha detto, ho capito, no. E ha ratificato il giorno dopo. C'aveva il paese dalla sua. Senta, ma senza, quindi senza un accordo tra Russia e Stati Uniti è inutile pensare di fare sul serio la guerra al è terrorismo. È ovvio, perché i 40 paesi o 10 continueranno a fare i loro giochi particolari. Ecco, però la Turchia, vorrei tornare un attimo sulla Turchia, perché è vero che è uno dei 40 paesi, però fa un gioco molto ambiguo, perché dice di fare la guerra all'ISIS, in realtà attacca i curdi, che sono quelli che combattono l'ISIS. Ecco, la NATO può accettare questo? Non dovrebbe sanzionarlo? No, perché la Turchia è paese della NATO. Appunto. E quindi... ma la NATO non dovrebbe sanzionare questo doppio gioco? Lo so, ma per sanzionare queste cose ci vuole una situazione internazionale completamente chiara e completamente controllata, cosa appunto i dissidi attuali impediscono. Senta, però in questo momento chi è assente dalla discussione e anche dalle prese di posizione è la Merkel, la Germania della Merkel, che in qualche modo sembra fallire il suo ruolo di leader in Europa, durissima contro la Grecia, adesso poca Germania contro l'ISIS, sbaglio? Perché è la storia tedesca che per ora implica questo, cioè la Germania fa il primo ministro e il ministro dell'economia dell'Europa, la Francia fa il ministro della difesa. E quindi siamo sempre lì, insomma Hollande si fida di Putin, Obama sembra no, però che la Francia... L'inverso, Hollande non diffida di Putin. Appunto, si fida di Putin. Si fida, ma Obama non si fida. Esatto, ecco, esatto. La Francia che converge con Putin è una sorpresa per lei o è normale? Beh, nella grande storia non è una sorpresa. Oggi è un cambiamento abbastanza rapido, dovuto appunto agli ultimi avvenimenti politici. Ma lei crede che si arriverà alla coalizione? Se non ci si arriva è un disastro. Io so solo dove si finisce se non ci si arriva, ecco. Poi ci sono tanti ricordi storici per me, guardi, la Francia, quando andai al funerale come Presidente della Commissione Europea, al funerale di Assad, no? Il padre Assad, era ospite dell'aereo di Chirac. E Chirac era il padre della Siria. Tutti i leader siriani passavano a confessarsi da lui, no? E poi ci fu l'assassinio di Hariri, grande amico di Chirac, Hariri, primo ministro del Libano, no? Sì. E che ha cambiato tutto, no? Però gli americani sembrano ancora tenere la posizione. Ricordi che la Siria è sempre stata tradizionalmente la figlia della Francia. Appunto, dico, ma gli Stati Uniti potranno, arriveranno ad accettare un passaggio in Siria che contiene in qualche modo l'accettazione di un futuro, di uscita, eccetera, però con Assad? Non c'è alcun dubbio. Il compromesso sarà quando si trattano queste, o non si trattano e arriva l'uccisione come è con Gheddafi, o quando si trattano si troverà un compromesso. Beh, ma l'esperienza di Gheddafi ha insegnato, dovrebbe aver insegnato qualcosa. Ma secondo lei quale compromesso può essere? Quale? No? Decisioni di elezioni, Assad decide di non presentarsi, un salvacondotto per Assad e famiglia che possa andare all'estero, un tentativo di governo. Insomma, un compromesso, una qualche forma di compromesso. Ecco, 2 anni fa sul New York Times Putin ha scritto che era finita l'era dell'eccezionalità americana. Ecco, è vero in qualche modo? Della eccezionalità non lo so, perché è ancora un paese eccezionale. Ma della monopolarità, cioè del governo di un paese, è già finito da un pezzo, perché gli Stati Uniti rimangono di gran lunga il paese più forte del mondo, ma non possono più esercitare questo ruolo da soli. Ma lei ma rifletta un po' su quello che sta accadendo, che la Russia in questo momento è un paese con una debolezza economica, con dei problemi interni serissimi per via delle sanzioni, del prezzo del petrolio, eppure dalle carte alla politica mondiale. Certo, è interessante questo. Queste politiche. Ecco, ma perché i servizi segreti occidentali in questo quadro non riescono neanche a mettere in comune le informazioni? Perché i servizi segreti sono segreti, cioè sono proprio la cassaforte dei segreti. Sì, ma ognuno si tiene i suoi, diciamo. È un'autentica follia, infatti. Invece di fare tanti giochi alle frontiere in Europa, bisognerebbe fare i servizi segreti comuni. Ma siccome non siamo riusciti a fare l'esercito in comune, e questa sarà l'ultima dell'ultima parte della Costituzione europea, i servizi segreti non sono facili da fare. Ci sarà qualche forma di collaborazione, scambio di informazioni. Poche però, per adesso poche. Per adesso non poche, pochissime. Pochissime. Senta, Presidente Prodi, ma in Siria dobbiamo bombardare anche noi o no, se si fa la coalizione? Guardi la Germania. Cioè? Cioè, me l'ha chiesto lei, voglio dire, ma che andiamo a bombardare? Il governo, quindi la posizione del governo italiano è giusta? Io sì. È d'accordo? Sì. Sì. Senta, e tutti fanno finta però di farla un po' la guerra all'ISIS. Senta cosa ci ha detto Gaiani, direttore di analisi difesa, sui bombardamenti. Numeri che ci dicono quanto scarso sia stato l'impegno della coalizione nei termini di bombardamenti aerei in questo anno. In totale si sono effettuate, i paesi della coalizione, 6.800 incursioni aeree, circa un terzo in Siria e il resto, i due terzi, in Iraq. Per intenderci, questo si è fatto in un anno. In Kosovo, solamente in Kosovo, in appena 2 mesi di guerra contro la Serbia, nel 1999, le missioni di attacco furono 38.000. Allora gli aerei da combattimento impiegati furono 600, in questo caso quelli schierati sono poco più di un centinaio. Quindi sostanzialmente l'ISIS non lo vuole combattere concretamente nessuno? Beh, solo a parole. Ecco, Presidente, fanno finta. Sì, ma questi aspetti quantitativi poi mi convincono un poco. Perché? Può darsi che nel deserto le cose sono diverse. Il vero problema è, mi spieghi lei perché non hanno bombardato i pozzi di petrolio, ecco, che si conoscono a uno nella carta geografica. Me lo spiega lei perché non li hanno bombardati? Perché ci sono appunto quegli interessi dei 40 paesi di cui abbiamo parlato all'inizio. Si rende conto che esistono le cartine con tutti, mi serve sul 54. E quindi fanno tutti finta, questa è la verità, sì, per ora. Lei prende Google e vede una colonna di 12 chilometri di autobotti. Nessuno li bombarda, va bene, stiamo scherzando. Senta, quindi Presidente Prodi, per finire... E poi ecco, stiamo seri, quando si bombardano le città si fa anche qualcosa, ecco, di danno. Ecco. Vabbè, certo. C'è della gente delle città, naturalmente. E non sono mica tutti terroristi, l'abbiamo visto noi nella seconda guerra mondiale. Senta, quindi, Presidente, per chiudere, di Putin bisogna fidarsi per vincere la guerra in Siria con l'ISIS? Bisogna fidarsi? Ma scusi, in politica, fidarsi in pieno, non ci si fida neanche della propria mamma. Però fidarsi un po'. È interesse avere rapporti stretti, duraturi e forti con Putin. Quando io parlo di Putin dico con la Russia, certo. Grazie Presidente, grazie Presidente. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. E allora andiamo dentro questa notizia. Mix 24, dentro la notizia. Mario, abbiamo sentito Prodi, insomma... Sì. Sempre con, interessante. Con Putin bisogna assolutamente fare i conti, è così? Sì, per vincere la guerra. Beh, questo sì. Da quando lui è in campo sul teatro operativo della Siria sono cambiate tutte le regole del gioco, no? I suoi caccia martellano ISIS, ci sono notizie anche dei raid di questo weekend che sono intensi. Quindi, sì, sono aumentati quelli russi. Sì, sì. Sì. E se prima dunque ISIS agiva pressoché indisturbata, oggi questo non è più possibile. Stanno cercando di attaccare la fonte primaria di ricavo per ISIS, cioè le zone dove c'è il commercio del petrolio, in particolare le cisterne che trasportano il petrolio. Ne hanno buttato giù in oltre 250 missioni negli ultimi giorni, parecchie, nella zona petrolifera di Deir ez-Zor, che è la più interessata da questi raid. Dopodiché resta aperto naturalmente il tema che abbiamo detto. Sì, Obama non vuole mandare soldati. Non vuole mandare i soldati. Lì c'è una discussione aperta dentro la Casa Bianca e nel congresso. John McCain proponeva una forza di 10.000 soldati americani aiutati da soldati degli altri paesi arabi. Vediamo che cosa succede. Ci saranno una serie di incontri questa settimana importanti. Domani Orlando sarà a Washington e così via. Quindi, sarà da Putin. E poi sarà giovedì da Putin. Quindi vediamo che cosa succede. Senti Pietrangelo, la guerra in Siria è decisiva comunque per battere l'ISIS. I fatti di Parigi hanno dimostrato quale pericolo incombe su di noi. Ecco, Putin è più vicino all'Europa però di Obama, non è un paradosso quasi storico? Ci sono 10.000 chilometri dall'Europa agli Stati Uniti d'America, c'è questa distanza, c'è questo paradosso, e cioè che la Russia, essendo nazione europea, viene di fatto esclusa nei rapporti, nelle relazioni e nelle decisioni. Si dimentica pure che la Russia è presente nel Mediterraneo, lo è presente storicamente, lo è presente effettivamente. La Siria è appunto terra dove i russi hanno investito da sempre, non solo nell'epoca sovietica né tantomeno adesso. C'è anche da dire che la tragedia e il terrore ci fa dimenticare tutto, e per esempio abbiamo dimenticato che tra il 1 e il 3 settembre del 2004 800 ostaggi vengono presi nella scuola numero 1 di Beslan, sì. Muoiono 333 anime, di cui 186 bambini. E questo è il tributo che la Russia ha dato nella lotta, ecco, al terrorismo e nella presenza in Europa. Ecco, Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera, salve. Ecco, salve. Ciao. Battista, ecco, tu sei contro il sostegno di Putin ad Assad, è vero? No. Beh, essere proprio contro mi sembrerebbe eccessivo. Mi è piaciuta la battuta del presidente Prodi sul fatto che in politica non ci si può fidare neanche della mamma, della propria madre, e lui lo sa 101 volte almeno, 101 volte, esatto. Sa che non bisogna mai fidarsi neanche della propria madre in politica. Ma tu pensi che quanto bisogna fidarsi di Putin allora nella lotta all'ISIS? Allora, sì o no? La fiducia non c'entra niente, c'entra il fatto, vogliamo essere alleati con Putin, anzi, nella lotta all'ISIS, sì. Evidentemente è un'alleanza forse necessaria, forse obbligata, in cui la fiducia non esiste però, perché poi tra l'altro il presidente Prodi parlava di interessi, adesso butta fuoco, l'ha detto, non è che la Russia sia priva di interessi, la Russia ha interessi a tenere la Siria in un certo modo, lo sbocco sul mare e così via. Il prezzo che dobbiamo pagare tutti è quello che abbiamo detto finora, cioè che è stato detto anche in questa trasmissione, e cioè che noi dobbiamo accettare come stato di fatto. Cioè ci vuole una realpolitik, insomma. Che la Russia di Putin può impunemente invadere un paese sovrano come l'Ucraina, prendersi con la forza militare, annettersi la Crimea e non avere nessun tipo di sanzione nel nome della lotta al nemico principale. Questo sì, Prodi ha anche detto, che forse se la NATO non fosse allora, arrivata fin lì, questo è un'ipotesi. Significa la conquista, quindi noi adesso andremo a conquistare l'Istria e la Dalmazia italiana perché abbiamo avuto un problema con i nostri vicini, l'Austria si vuole prendere il Sud Tirolo perché storicamente il Sud Tirolo, ma che c'entra? Questo è il fatto che comunque è un prepotente, Putin è un prepotente che oltretutto può intervenire, diciamo, con una certa forza. Primo, per il vuoto assoluto lasciato dall'Occidente, dagli Stati Uniti e dall'Europa. Ecco, ma gli Stati Uniti dove sono in tutto questo? Come mai gli Stati Uniti sono così assenti su questo scenario? Dice Prodi perché il presidente non ha il paese in mano, è una spiegazione? Ma no, sono anni che non hanno più una strategia. In più gli Stati Uniti hanno un piccolo problema, che gli Stati Uniti sono una democrazia, anche l'Europa sono delle democrazie, e quindi vedere delle bare che tornano dal terreno militare in Siria e contro l'ISIS a dei prezzi enormi, la Russia non è una democrazia, non c'è un'opinione pubblica che in qualche modo possa chiedere a Putin un atteggiamento più prudente. Esiste un Parlamento che vota. Sì, ma lei è deluso dalla politica estera di Obama o no? No, le chiedo. Noi dobbiamo fidare di Putin perché non esiste più una politica estera degli Stati Uniti. Questo è significativo, però noi ci siamo messi. Noi abbiamo una certa età, molti nostri ascoltatori non ce l'hanno. Non mi ricordo che quando la Russia si chiamava Unione Sovietica, noi parlavamo, quelli che non erano a favore dell'Unione Sovietica, del valore universale della democrazia. Se la ricorda questa roba ottocentesca, settecentesca, questa cosa. Però, noi dobbiamo cancellare l'idea che la democrazia sia un valore universale. Però anche i giovani, con un leader non democratico. PG Battista, senta, anche i giovani, molto più giovani di noi, senta cosa dicono del ruolo di Putin. Putin, possiamo fidarci di quest'uomo? Sì. Risposta? Sì, faccio una risposta da tweet. Sì, perché nella comunità internazionale è del tutto evidente che nessuno può immaginare di costruire l'identità europea contro il nemico più grande, che è contro il vicino di casa più grande, considerandolo il nemico più grande. Costruire l'identità europea contro la Russia è un'assurdità. Quindi anche il giovane Renzi concorda. Ma io non sono contro la Russia, però non è possibile che la Russia possa occupare militarmente un paese sovrano. Ma adesso stiamo parlando della guerra all'ISIS. Ma dato che va fatta o non va fatta? Russia, ma va fatta. No, ma le chiedo se va fatta o non va fatta questa santa alleanza, in qualche modo. Purtroppo, purtroppo non avendo più gli Stati Uniti, l'Europa non c'è mai stata, non esiste, l'Europa è un fantasma, uno spettro, non esiste. Orlando lo lasciano solo, gli altri tutti appunto si girano dall'altra parte, compresi noi. Mario, non possiamo che stare con Putin. Malgré tu. Ok. Mario? Una domanda per Pigi, buongiorno. Buongiorno. Ma insomma, la più grande delusione tua mi pare sia Obama, o sbaglio? Cioè, si è passati dal change al niente. Cos'è successo? Dato che si dà la colpa, sempre la colpa a qualunque cosa, anche in Mali, anche in Mali, colpa sua. Bene, per quale rapporto ci sia, comunque anche nel Mali è colpa di Bush. Obama, per essere andati via in quel modo lì, senza aver costruito un futuro politico dell'Iraq, aver detto che con Assad al primo accenno di uso di armi chimiche sarebbe intervenuto, superata la soglia, e poi non si è fatto nulla, una situazione di totale, diciamo così, impotenza politica. Poi è evidente che di fronte appunto a un nemico così tremendo come l'ISIS è necessaria anche la Russia. Grazie Battista. Ecco, ma chi è questo Putin, il personaggio? Gennaro San Giuliano, che è vice direttore del TG1, saggista, autore di un libro intitolato Putin, vita da zar. Ecco, San Giuliano, chi è Putin? Putin è il prodotto della storia russa, è un personaggio che ha una biografia personale molto particolare. Ecco, com'è stata la sua infanzia? Ma lui è il figlio dell'assedio di Leningrado, drammatico assedio, 1 milione di morti, il padre perde una gamba in guerra, la mamma subisce danni fisici e soprattutto perde un fratellino, Viktor, di 7 anni, quindi cresce in questo ambiente molto duro. Ecco, ma il suo ruolo con Yeltsin qual è stato? Ma lui si schierò contro i golpisti che volevano restaurare l'Unione Sovietica ed è stato quello che in un certo senso ha salvato la Russia dal caos, dal potere degli oligarchi, dalla svendita delle risorse energetiche e collettive e soprattutto dallo strapotere della mafia. Ecco, ma che cosa è il Rinascimento nazionale tradizionale? Cioè, che è il suo, un po' il suo motto, è la tradizione russa vera e propria a cui si fa riferimento lui? È la fusione di tre elementi: da una parte un po' di Russia zarista, quella del nastrino di San Giorgio giallo e nero, poi la tradizione sovietica, la restituzione alle forze armate della bandiera rossa con la falce e martello, e soprattutto la Chiesa ortodossa, che è la novità rispetto a Stalin. È la grande novità, perché Putin si dichiara un credente, un osservante, fu battezzato segretamente dalla madre e dopo un disastro nella sua casa di campagna, nella sua dacia, ha avuto un attimo di un momento profondo di riconversione. Qualche anno fa abbandonò la campagna elettorale per recarsi nei monasteri e nei luoghi simbolo dell'ortodossia russa. Ecco, Putin si fa ritrarre mentre lotta, libera tigri, fa sport. La sua iconografia è un po' quella dell'uomo di potere assoluto. In Europa lo criticano, in America lo dipingono come il nemico, ma in Russia lo amano e lo amano molto. Perché lo amano così profondamente? Ma perché questo stile è uno stile coerente con la storia russa. Anche Brezhnev si faceva riprendere all'interno della sauna e Stalin in posizioni militari. È un po' mussoliniano in questo, potremmo dire, Putin. Però è coerente, diciamo, con la Russia. Noi non possiamo pretendere che un paese passato dall'autoritarismo zarista a quello bolscevico-comunista possa diventare una democrazia liberale in pochi decenni. Ecco, viene accusato di aver ordinato l'eliminazione di giornalisti, spie, avversari politici, sia in patria che all'estero, ma ci sono prove di questo? No, prove non ce ne sono assolutamente, ci sono tantissimi sospetti, alcuni oggettivamente, diciamo la verità, un po' anche fondati, ma prove non ci sono e del resto sarebbero emesse delle prove, perché poi alla fine è difficile riuscire a nascondere in un mondo così globalizzato, così interconnesso, fatti così gravi. Ecco, l'ispirazione di Putin, un po' l'hai detto, ma viene di più dallo zar o da Stalin? Credo forse più dallo zar, cioè il suo sogno imperiale. Quando cadde l'Unione Sovietica, tutti quanti toglievano i ritratti dal muro e non sapevano che cosa mettere. Qualcuno metteva Yeltsin, qualcun altro non metteva nulla. Putin si procurò un grande ritratto di Pietro il Grande e se lo mise dietro la scrivania. Ecco, Mario, tu hai una canzone per chiudere questa nostra cavalcata nel mondo di Putin? Sì, che la Russia, la grande Russia, con una grande cultura e creatività, lo schiaccianoci. Moltissime reazioni su Putin, il nostro pubblico è diviso sul ruolo che deve avere Putin in questa lotta all'ISIS, è consenso da molte parti, da Cesena e tanti altri, sull'intervento del presidente Prodi. Invece Giancarlo da Rimini, buongiorno. Ah, buongiorno Minoli. Dica. No, le volevo chiedere solo un parere. Allora, noi abbiamo aiutato i paesi dell'ex Jugoslavia bombardando Belgrado, anche a 200 km da Venezia, per aiutare gli ex stati della Jugoslavia, sì, no? Per tornare indipendenti. Allora, perché la Crimea non può tornare indipendente? La Crimea ha fatto un referendum per tornare indipendente, infatti. Sì, però l'Ucraina non vuole, quindi è dovuto intervenire la Russia. Esattamente due cose, una è contraria dell'altra, però gli ex della Jugoslavia l'abbiamo aiutato bombardando la Serbia. Sì. No, volevo solo sapere il suo parere. Io penso che la Crimea russa ha fatto un referendum e se n'è andata. E penso che in Ucraina quello che ha detto Prodi è abbastanza significativo, che probabilmente è stato un po' intempestivo l'accettazione da parte della NATO di un paese così vicino. Grazie. Allora, Pietrangelo, la canzone di oggi? Ride la stella al tebarà, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa, tra la la, to be, to be, to be or not to be. E suona, suona l'orchestrina, un motivetto da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Allora? E allora, dopo la Santa Domenica, comincia la settimana e col pieno all'automobile, coi propositi e col freddo ormai strutturato, ci si deve fare largo nei giorni con un ritmo energizzante e perciò l'orchestrina di Paolo Conte. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Mario? Sì. Mario, tu, la tua bolla cattiva che ancora sto aspettando dall'inizio dell'anno. Allora, che sola. Il Conte. Giovanni, io mi sono svegliato stamattina con un grande dilemma. Anche tu, Pietrangelo, ascoltami, non pensare a, come si chiama, Valentina, là non mi ricordo più, quella che dedichi, insomma, una delle tante. No, io come avevo una delle tante, l'unica. Un'unica. Insomma, io mi sono svegliato e ho detto: ma Bassolino che fa? E niente, Bassolino fa, si candida. E mi sono chiesto: ma ne avrà diritto? E io ho detto: boh, sì, credo di sì, in fondo, sì, è la democrazia. Poi ho squadernato così l'impaginato dei giornali e ho visto che Deborah Serracchiani dice: ha trovato la soluzione. Non si possono più candidare quelli che hanno fatto il sindaco. Allora io così, ero un po' sovrappensiero, mi sono detto: ma ti candidi? No, non posso. Sto lavorando, preferisco vivere. Ma mi sono detto: ma insomma, non è che concorrente che trovi, regola che scrivi. Ora qua sembra così, insomma, non lo so. Io se, insomma, non lo so, se fossi un, come dire, uno che vuole fare politica nel PD, direi: beh, ma è strano, anche perché io vorrei ricordare che Renzi le prime primarie, scusando il gioco di parole, le perse perché i bersaniani gli scrissero una serie di regolette ad hoc per farlo arrivare secondo. E mo che fanno, lo imitano, cioè mi sembra una cosa incredibile, cioè. Queste primarie sono un vero rebus per il PD. Allora le facciano o non le facciano, esatto, piuttosto? Ma non sanno decidere, dipende dalle volte. Salamino! Nel solco di Mario, elezioni sono un argomento croccante. Croccantissimo. Milano è chiara, Roma si rischiara. Allora, giochi fatti all'ombra della Madonnina. Arrivano le elezioni e gli schieramenti hanno deciso. I Piritolli hanno Gian Domenico Sala. San Sala. I Veneranda invece hanno Alessandro Sallusti e anche Silvio Berlusconi, ospite della scuola di formazione politica della Lega Nord, dopo aver spaventato i leghisti perché ha proposto come leader Mario Draghi ai leghisti. Ma quando? Ieri. Sì, è stata una scena tipo, sai, l'esorcista. Cioè... Ma stai scherzando? Davvero? Sì, sì. Ecco. Vabbè, sai, le fantasie del cavaliere. A porte chiuse. Dopodiché ha dato la sua benedizione ad Alessandro Sallusti. Allora, Milano è chiara, Roma però si rischiara. Vi vorrei dare un aggiornamento. Perché? Allora, come è ovvio, le carte per prima si scoprono a sinistra e Matteo Renzi, archiviato Ignazio Marino, ha già pronta la matta, che è la carta matta per sparigliare. Allora, non sarà Zingaretti, che è il presidente della regione, non sarà Giovanni Malagò, che è il presidente del CONI. Sta bene al CONI. Sarà appunto una donna. Non sarà Marianna Madia, attuale ministro della pubblica amministrazione, bensì... Tieniti, Mario. No. Sì, sì, è una notizia bellissima. Laccio la cintura. La candidata di Matteo Renzi, del Partito Democratico, della sinistra, della gente, quelle uomini chicche, femmine pettate, sarà Laura Boldrini, presidente della Camera. E l'intera comunità politica è elettrizzata. A Boldrinova. Sì, sarà candidata lei. No, sì, no, ma sarà è tutto... pop, sta tra il popolo. Ma tutti, cioè la gente non vede l'ora di votarla. Sì, ed è tutta trasversale mobilitazione, caro Giovanni, lo sai? sai chi troverà al suo fianco? Che chi? Probabilmente, pur nella loro statura, sì, saranno disponibili nella giunta, chi, di amministrazione della città di Roma capitale. Saranno, allora, c'è il suo predecessore a Montecitorio, cioè Gianfranco Fini. Come no? Poi c'è un campione di vaglie e di telegrammi come Mario Segni, che torna in politica. Dopodiché, dopodiché i romani non vedono l'ora, Achille Occhetto, pure lui. Tutti vogliono Boldrini sindaco, e a sorpresa, travestito da Befana, preparandosi alla notte, con le scarpe pure rotte, arriva e dice a lei... quello che tutti dicono in un unico corpo, Ignazio Marino. Anche lui ritira la sua candidatura alle primarie perché sostiene Laura Boldrini, e lui con noi, con tutti, così canta. Dite a Laura che l'amo e che devo. In forma stamattina, la metropolitana ha fatto bene. No, no, è venuto a piedi. È venuto ecco sì, perché. Infatti sono venuto un po' tardi. C'è ancora una bolla, Mario? Sì, vai. Ah, questo è un pezzo meraviglioso dei Cure, Close to Me. E per dire cosa? Che sono tempi duri per il nostro amico Gordon Gekko, che di cui adesso sentiamo anche un parere, perché sta crollando il mito dei trader di Wall Street a favore invece dei ragazzi ricercatori, neolaureati, semplici nerd della Silicon Valley. Cioè oggi è più importante avere l'algoritmo giusto per comprare e vendere titoli che invece quello che sente il mercato tra le dita e sente compra di e più l'algoritmo titoli. sente di più l'algoritmo. Io però questa cosa l'ho letta stamattina con un po' di preoccupazione, non per me ma per l'umanità, diciamo, sul Financial Times, e mi sono chiesto che cosa ne pensa Gekko. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata. Secondo me ha ragione, però. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ci sono diverse chiusure lampo nascoste in questi giubbotti. A cosa servono, Bezzi? Signore e signori, buon pomeriggio. Scusate per la voce affannata, ma circa 10 minuti fa, e ormai tutto sembra confermarlo, nella città di Dallas è successa una tragedia. Il presidente Kennedy e il governatore John Connally sono stati colpiti da pallottole assassine nel centro di Dallas. Siamo sulla WFAA-TV di Dallas in Texas. Può dirci il suo nome? Mi chiamo Abraham Zapruder. Può raccontarci cosa ha visto? Ho sentito un colpo e l'ho visto sobbalzare così. Dalle 12.30 di quel 22 novembre del 63 ci chiediamo chi abbia ucciso John Kennedy. E perché? Nessuna risposta definitiva dalla giustizia, malgrado 4 commissioni d'inchiesta, poche certezze da milioni di pagine, dagli scoop, dai film e dai documentari. Noi ancora oggi ci emozioniamo ascoltando le voci di quei primi concitati momenti, la modella, il giornalista, poi Abraham Zapruder, Lyndon Johnson e il coroner. JFK, un caso mai risolto, un mistero senza soluzione. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Mix 24. Il canzoniere! Io tra i molti vi saluto, rosso, alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo, amati. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Una settimana che lo mandiamo, ci dai un aiutino? Allora, milioni di italiani si sono nutriti alle tue trasmissioni. Io l'ho presa da una tua trasmissione. Cioè, ed vuoi umiliarmi? No, dico, è una testimonianza di un grande poeta italiano da una grande forza, Rai, insomma. Ti prego, prego, per favore, proviamo a invitarlo, cioè a indovinarlo. C'è ancora una bolla, Mario? Sì. Ehi, che pezzo questo, guarda, là in regia sono tutti contenti. Alan Parson Project, mi dicono che sono un passatista, ma viva i passatisti, questa è musica. Allora, no, stavo seguendo questa cosa della Guotai Junan International, che tu direi che è uno dei principali gruppi finanziari della Cina. È scomparso il presidente e le azioni stanno crollando in borsa. Allora, la storia è curiosa perché ti dice anche quanto è, diciamo, singolare tutta la finanza cinese. Ho visto adesso che il comitato centrale del Partito Comunista sta procedendo alle ispezioni. Ora, noi dobbiamo immaginare una cosa: per quanto tempo possa andare avanti questo sistema duale con zero libertà e capitale. Quindi secondo me poi anche dalla Cina prima o poi avremo delle notizie un po' più inquietanti, diciamo. Forse c'è un vincitore? Davvero? Alessandra da Piacenza, il presidente della Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Allora? Squadra paesana di Umberto Saba. Giusto! Che brava, complimenti. Oh. Questa non era facile. Finalmente, complimenti. Com'è che la sa? Perché ho un papà triestino e la sento esclamare da quando ero bambina. Ah, perfetto, ecco. Bene, grazie mille. Beh, siamo soddisfatti che abbiamo indovinato. Abbiamo riabilitato anche Buttafuoco. Adesso con il professor Roberto Bernabei, come sempre commentiamo una delle più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, 15 ottobre 2015. Accesso a pronto soccorso per reazioni avverse legate ai supplementi dietetici. Cioè, esattamente? Ma tutti quanti vedono, tra l'altro la pubblicità ci inonda in modo importante, come i cosiddetti supplementi dietetici, sia di origine vegetale o i micronutrienti come vitamine o sali minerali, sono spesso sponsorizzati, spesso utilizzati perché si pensa che possano contrastare l'ingrassamento, l'obesità. Ma il primo problema, ed è per questo anche che ve ne voglio parlare oggi, è che uno pensa che quando c'è la parola natura vada tutto de plano. I veleni sono naturali. C'è un sacco di roba che fa malissimo in natura. Quanti funghi, faccio per dirne una perché siamo in stagione, sono pericolosissimi. Non è che tra quello che è tra virgolette naturale e quello che è tra virgolette chimico c'è una differenza, per cui il naturale è sempre buono e il chimico è sempre cattivo. Sono la stessa cosa, che qualche volta può far bene e qualche volta può far male. E allora si è visto che, per esempio, per questi supplementi dietetici, vegetali o vitamine o sali minerali, facendo un calcolo su quello che è il dato statunitense, vi sono qualche migliaio di ricoveri semplicemente per gli effetti dannosi che danno questa roba: palpitazioni, dolore toracico, soprattutto per i cosiddetti supplementi botanici, i supplementi vegetali. E invece per i micronutrienti, vitamine e sali minerali, problemi di vomito e di tensione addominale. Cioè a dire, insomma, non è che perché andate in erboristeria avete risolto i problemi. E questo non lo dico perché sono un difensore della medicina tradizionale e della farmacopea più o meno chimica. È perché è un problema semplicemente dimostrato dalla scienza. Non solo dimostrato dalla scienza, ma di grano salis. Insomma, non pensate che quello che è naturale è buono di per sé. E per finire, io e te da soli di Mina. Io e te da soli, soli. Vederò morirei stasera.